Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo mercoledì 19 luglio 2023, mercoledì caldissimo e però va lo stesso in onda questa trasmissione che ogni mercoledì per un paio di ore vi propone musica registrata dal vivo, si chiama Città Fujiko Live Club. E naturalmente viene trasmessa da Via Zanardi, la sede di Radio Città Fujiko in Bologna. Andiamo subito ad iniziare, visto che siamo un po' in ritardo, con la novità che vi propongo quest'oggi, che è la seconda parte della novità di cui la prima parte è andata in onda la scorsa settimana. Sto parlando di Eric Clapton, sto parlando di 24 Nights, che è stato riproposto, originariamente uscì tantissimi anni fa nel 1991, esattamente in ottobre, in formato doppio CD. Adesso è stata ripubblicata in un mega formato, vediamo se stavolta riesco a spiegarmi meglio. Il mega formato è composto da tre doppi CD, rock, blues e orchestral, più tre DVD. Inoltre c'è un enorme libro, quello che appunto gli inglesi chiamano Table Book, che è uno di quei libri grandissimi che per leggere dovete per forza appoggiare al tavolo. E questa è una follia. Però per noi poveri comuni mortali non tanto ricchi, diciamo così, sono stati pubblicati i tre doppi CD che sono all'interno del cofanetto, sono stati ripubblicati singolarmente con annesso un DVD, non un Blu-ray, e quindi questo è la spiegazione, spero io stavolta di essere stato un po' più chiaro. La volta scorsa ci siamo ascoltati il 24 Nights Orchestral, oggi invece è la volta di 24 Night Blues, che naturalmente Eric Clapton sia un grande bluesman non ci piove, anche se ogni tanto, soprattutto negli anni 80, ha avuto qualche scantonamento. Ma ce ne andiamo subito ad ascoltare, visto che, come dicevo, siamo un po' in ritardo. Il brano che ho scelto per voi quest'oggi si chiama Something in Your Mind, Mr. Eric Clapton alla Royal Albert Hall di Londra. Pain. a man's name. Have you ever loved a woman so much it's a shame and a sin? Have you ever loved a woman so much it's a shame and a sin? All the time you know, yeah, she belongs to your very best friend. We'll be right back. il caldo ha già colpito duro chi vi sta parlando, nel senso che i più attenti di voi avranno capito che questo non era Something on Your Mind che vi avevo annunciato, ma la bellissima Have You Ever Loved a Woman, uno dei grandi classici della carriera di Eric Clapton. Si chiama Sindrome di Nevio, quando sei indecisi fra due brani se ne annuncia uno e se ne trasmette un altro. È una cosa che però credo al primo pezzo non mi fosse mai successo. Comunque, il brano si chiama Have You Ever Loved a Woman, Eric Clapton, 24 Nights, versione blues, che è stata registrato come gli altri due doppi CD alla Royal Albert Hall di Londra. Vi ho già raccontato che è stata inaugurata il 29 marzo del 1871 in memoria dalla regina Vittoria, in memoria del suo defunto consorte, come si suol dire, il principe consorte, appunto, Alberto. È stata rinnovata diverse volte, le ultime nel 1996, nel 2004, e ha 5272 posti seduti. Eric Clapton, per la cronaca, ha suonato alla Royal Albert Hall più di 200 volte e già sono in programma anche concerti per l'anno prossimo. A questo punto una piccola rassegna di brani registrati alla Royal Albert Hall di Londra da artisti e bands americane. Ce ne sono tantissime, naturalmente, perché suonare alla Royal Albert Hall è sempre una cosa molto molto prestigiosa. Ed iniziamo con un bluesman verace, un bluesman di quelli che hanno fatto la storia del blues, uno dei pochi bluesman storici ancora in vita, e spero di non portargli sfiga. Si chiama Henry St. Clair Fredericks Jr., ma tutti lo conosciamo meglio come Taj Mahal. Viene da Harlem, New York City, naturalmente, e tutto è iniziato perché i suoi parenti gestivano una stazione radio in quel di New York, e quindi lui è sempre cresciuto all'interno della musica. Qui abbiamo una doppia raccolta che si chiama The Hidden Treasure of Taj Mahal, cioè I tesori nascosti di Taj Mahal, un dischetto in studio con alcune delle sue prestazioni migliori. L'altro invece è registrato dal vivo alla Royal Albert Hall il 18 aprile del 1970. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano di Sonny Boy Williamson, si chiama Checking Up for My Baby. Lui invece è Taj Mahal. Again to Chicago, a tune called Checking Up on My Baby. baby. I got the band that what you've been putting out. Oh, so many nights and days. People said the blues have been in my town. Oh, baby, what you gonna do? She can cook fine. She can cook good. She can cook good. She can cook good. She can cook. She can cook fine. Oh, she's a sweet potato pie making woman. The soul is all of mine. Anche i super fantasmagorici Snarky Puppy hanno il loro bravo doppio CD registrato dal vivo alla Royal Albert Hall, che guarda caso si chiama proprio Live at the Royal Albert Hall. Il brano che ci siamo ascoltati è il primo brano del secondo dischetto, si chiama Tarova ed è stato registrato, come tutto appunto questo ottimo concerto, il 14 novembre del 2019 nella capitale britannica. Da questo che era praticamente l'incisione più nuova, la registrazione più nuova per meglio dire di questa prima parte della trasmissione, alle due più antiche. Arriviamo adesso al 1971, siamo nel maggio del 1971, il 13 per la precisione, e in concerto abbiamo una di quelle band che i critici saccenti definirebbero seminali. Da loro sono usciti i membri che hanno poi fondato i Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young, i Firefall e diversi altri. Sto parlando naturalmente dei Byrds. Roger McGuinn è il solo membro che è stato costantemente nel line-up fin dal 1964. E adesso ce ne andiamo ad ascoltare in questa registrazione, appunto del 1971, è lo stesso Roger McGuinn a introdurre il brano. So you wanna be a rock and roll star. Alzi la mano chi non conosce questo brano. Se qualcuno ha alzato la mano, devo comunicargli che musicalmente parlando ha qualche lacuna e qualche problema. Naturalmente Creedence Clearwater Revival, il brano si chiama Proud Mary, uno dei brani più famosi di tutta la storia della musica di tutti i tempi. Siamo a livelli della nona di Beethoven, diciamo. E loro venivano da El Cerrito in California, sono stati attivi dal 1959, però è stato nel 1967 che hanno cambiato nome e sono diventati Creedence Clearwater Revival, sono stati attivi fino al 1972. Qui siamo nell'aprile del 1970, quindi è la registrazione più vecchia, più antica fra quelle che ascolterete in questa prima parte della trasmissione, erano all'apice del successo in quel momento i Creedence, e fecero un piccolo tour europeo che li vide appunto alla Royal Albert Hall di Londra il 14 aprile del 1970. Cambiamo completamente genere, giusto così per gradire. Andiamo a una registrazione del 2014, del 30 giugno, e siamo in compagnia di un pazzo furioso che abbiamo visto insieme ai suoi compagni Eels qui a Bologna lo scorso aprile, in un concerto onestamente non entusiasmante. Loro sono attivi dal 1995 e scritto E, è appunto il leader da sempre. Ci andiamo ad ascoltare in questo doppio CD più DVD che è stato registrato alla Royal Albert Hall il pezzo, uno dei loro più famosi, si chiama My Beloved Monster. My beloved monster and me, we go everywhere together, wearing a raincoat that has four sleeves, gets us through all kinds of weather. So damn mean, my beloved monster, she's tough, and if she wants, she will disrobe you, but if you lay her down for a kiss, her little heart, it could explode. So damn mean. Ah. to know your name. 17 tracks and I've had over this game. I'm breaking my back just to know your name. But heaven ain't close in a place like this. Anything goes, but don't bleed you my best. But heaven ain't close in a place like this. I said heaven ain't close in a place like this. Bring it back down, bring it back down tonight. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. Well, somebody told me you had a boyfriend. You look like a girlfriend. I had him back in February of last year. He's not confidential, I've got potential. Ready, let's roll, I'm in something. It's taking its toll, I'm leaving without you. But heaven ain't close in a place like this. I said heaven ain't close in a place like this. Bring it back down, bring it back down tonight. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. So somebody told me you had a boyfriend. You look like a girlfriend. I had a February of last year. It's not confidential, I've got potential. Just rush it around. Place yourself for me. I said maybe, baby, please. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend. I had a February of last year. It's not confidential, I felt potential. Rushing, rushing around. Now somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend. I had a February of last year. It's not confidential, I've got potential. Just rushing around. Somebody told me who looked like a girlfriend. I had a February of last year. It's not confidential, I've got potential. Rushing, rushing around. Vengono da Las Vegas, Nevada, questi Killers, che il 6 luglio del 2009 hanno registrato un doppio dischetto più DVD alla Royal Albert Hall di Londra, che si chiama, guarda caso, ancora una volta, Live from the Royal Albert Hall. Era appunto il 6 luglio del 2009, 5 e 6 luglio del 2009. L'ultima cosa per questa piccola rassegna di artisti e band americane registrate live alla Royal Albert Hall di Londra è Miss Beth Hart, grande cantante, grande personaggio, ha avuto un sacco di problemi nella propria vita, direi i soliti fra virgolette, droghe, alcol e tutto quello che volete voi. E che ha superato grazie alla religione. Adesso anche nei suoi concerti spesso parla di religione e ringrazia la religione per averla salvato la vita. Questo brano che ci andiamo ad ascoltare è da un doppio dischetto che si chiama Albert Hall, è stato registrato il 4 maggio del 2018 e si chiama, come non chiamarsi così, Trouble, problemi. Everybody put your hands up in the air. Shake it out, shake it out, shake it out. I didn't come to make trouble, but there's a war on the rise. We were built for survival. I give it no compromise. I just want one day in the sun. We'll be right back. gonna repeat right after me, okay? We're gonna do this bit together. It's one of my favorite bits too, I love it. Now do this right here. Sing it back. Sing it back. Give me my money back. Hey you! Motherfucker! Give me my money back. Give me my money back. Hey you! Hey you! Motherfucker! I say give me my money back. Give me my money back. I say give me my money back. Now there is nothing more wonderful than being in this lovely, graceful place and we all say motherfucker together. I love it. It's so wonderful. Try to talk like a good woman. Try to walk like a good woman. But when I talk, damage is done. When I walk, the angel run. I try to walk. Oh! I'm a guy. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, vale a dire Eric Clapton 24 Nights versione blues. E però la voce che avete ascoltato non è quella di Eric Clapton, chiaramente è quella di Albert Collins, perché come capita spesso nell'ambiente blues, ma non solo nell'ambiente blues, nel corso delle varie serate in cui sono stati registrati i concerti fra il 1990 e il 1991 che hanno formato la versione originale di 24 Nights e anche questa ristampa dello scorso giugno, nel corso appunto di queste serate blues ci sono stati diversi ospiti, Robert Cray, Buddy Guy e appunto Albert Collins, che ci siamo ascoltati in questo brano che si chiama Black Cat Bone, che è un classico della musica blues di tutti i tempi. Come vi ho già detto, è stato diviso in tre parti questo 24 Nights. La versione orchestrale ce la siamo ascoltati la scorsa settimana, questa è la versione blues, ma per ascoltare la versione rock dovrete aspettare praticamente un mese. Infatti questa è l'ultima trasmissione della prima parte dell'anno per quel che mi riguarda. Mercoledì prossimo sarò in quel di Monza, reduce dal concerto di martedì sera di Bruce Springsteen con la E Street Band, per cui sarò un po' sotto shock e non posso tornare per la trasmissione. E il 2 agosto è chiaramente dedicata alla manifestazione che si tiene purtroppo ormai da troppo tempo, per quel che riguarda il 2 agosto del 1980, chiaramente. Dopo naturalmente ci sono le ferie della radio che sono più che doverose, e il tutto, anzi non il tutto, personalmente, vale a dire Città Fujiko Live Club, riprenderà il 23 agosto. Come sempre anche in quest'ultima trasmissione della prima parte dell'anno, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime, e ancora una volta vi dirò che il criterio di scelta è un brano per ogni decade. I'm gonna miss you. E cominciamo dal 1977, un doppio long play, quello che ho tra le mani, con tanto di etichetta, costò a suo tempo 5 sterline, quindi è parecchio tempo fa. Comunque, il titolare di questo doppio long play, che racchiude un concerto registrato appunto il 19 luglio del 1977 alla Royal Festival Hall, è una band che si chiama Osibisa. Furono praticamente i primi a fare quella che adesso viene chiamata world music. Infatti sono stati fondati nel 1969 da 4 espatriati provenienti dal Canada e da 3 musicisti africani che vivevano in quel di Londra, ma erano di origine caraibica. E appunto furono delle prime band a mostrare al grosso pubblico rock quello che era la musica africana. Fra l'altro si avvalevano, almeno sono avvalsi per meglio dire, per quel che riguarda i primi 2 album e per quel che riguarda il loro logo, della vena artistica, di quel fenomeno artistico che risponde al nome di Roger Dean, che molti di voi conosceranno per le copertine degli Yes. Bando alle ciance, ci andiamo ad ascoltare questi Osibisa. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare appunto è uno dei loro super classici, non a caso concludeva il concerto del 19 luglio 1977 alla Royal Festival Hall, e si chiama Sunshine Day. Everybody sing along so that we have a good sound and everybody will be happy. Okay, Sunshine Day! One, two, sunshine! si chiamano tuttora Osivisa, anche se naturalmente, visto l'età della band, che è partita nei secondi anni 70, e sono rimasti in pochi quelli originali, due. Ma questo album, che si chiama Black Magic Night, è veramente notevole ed è un antesignano, lo ripeto, di quello che sarebbe venuto qualche tempo dopo con la world music. Sunshine Day, il brano che ci siamo ascoltati, era il 19 luglio del 1977 in quel di Londra. Se vi dico James Newell Ostenberg Jr., magari a molti di voi non dirà nulla, ma se invece lo chiamo Iggy Pop, magari dice qualcosina in più. Uno dei grandi personaggi della musica rock di tutti i tempi, uno che è partito con gli Stooges nel 1967 ed è ancora lì sul palco che si denuda, anche se ormai è un'età in cui potrebbe anche evitare. Lo chiamano The Godfather of Punk perché appunto è stato uno degli ispiratori di questo movimento che ha coinvolto tanti giovani in tutto il mondo. L'album che ci andiamo ad ascoltare fa parte della serie King Biscuit Flower Hour, che era una trasmissione radiofonica americana che un paio di volte alla settimana proponeva concerti in tutti gli Stati Uniti, una cosa a livello nazionale. E il tutto è stato registrato al Channel di Boston, un locale che non ha vissuto molto ma che ha dato vita a diversi concerti. Fra l'altro questo concerto appunto fu trasmesso per radio e esistono infiniti bootleg di questo concerto, ma questa è la versione ufficiale King Biscuit Flower Hour. Il pezzo per voi, che ho scelto per voi, è uno dei super classici della produzione di Iggy Pop, si chiama 1969. Baby. uno dei grandi classici della produzione di Iggy Pop, si chiama 1969 ed è eseguito in questa occasione al Channel di Boston, Massachusetts, naturalmente, il 19 luglio del 1988. Calmiamo un po' le acque con una registrazione del 1992. Siamo al Palace di Auburn Hills, un sobborgo di Detroit, naturalmente siamo a Michigan, Stati Uniti, in concerto una grande band che abbiamo visto anche qui a Bologna in un magnifico concerto la notte di Halloween dello scorso anno, 31 ottobre 2022. Sto parlando naturalmente dei Cure. Robert Smith da sempre il leader, Robert Smith anche lui diciamo che potrebbe evitare certi trucchi, certi capelli un po' che hanno lasciato il loro tempo. Comunque sono attivi dal 1978 e sono ancora sulla cresta dell'onda con concerti veramente notevoli e album altrettanto. Questo è un album dal vivo che si chiama Show, appunto registrato a Auburn Hills, e che racchiude un sacco di gemme della band di Robert Smith, fra cui questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare che si chiama Lullaby. Thank you. You might remember this song. It was called Mixed Up Shook Up Girl. Thank you. che mi sto sognando. Uno dei personaggi più sottovalutati nella storia della musica, purtroppo, si chiamava William Paul Borsi Jr., ma tutti noi lo conosciamo meglio come Willie DeVille, grande personaggio che pur essendo nato nel Connecticut si è poi stabilito quasi subito a New York, dove ha cominciato la carriera musicale con una band che si chiamava Mink DeVille. E lui era Willie DeVille, naturalmente. E poi nel 1985 ha lasciato la band per una carriera solista che ha avuto molti bassi e pochi alti. Fra l'altro ha vissuto anche per un certo periodo in Europa, in Francia per la precisione. Purtroppo è morto il 6 agosto del 2009, tantissimi anni fa, e quasi nessuno purtroppo si ricorda di lui. Quello che ci siamo ascoltati è una cosa un po' anomala, nel senso che solitamente i combo, cioè i cofanetti, diciamo così, che uniscono CD e DVD, sono composti da due CD e un DVD. Questo invece è il contrario, due DVD e un CD. Il perché è presto detto, perché è una registrazione effettuata. In realtà sono due registrazioni effettuate per quella benemerita trasmissione televisiva tedesca che si chiama Rock Palast. I primi due DVD sono dedicati a una registrazione del 2008 e l'altra del 1995, mentre il CD, che è quello che ci siamo ascoltati, è relativo al 2008, il 19 luglio. Rock Palast è una trasmissione fenomenale, era, perché mi pare che non ci sia più e studierò meglio per la prossima volta. E però organizzavano grandi concerti, li trasmettevano per questa TV tedesca che si chiama WDR, e hanno fatto tantissime cose, spesso ve lo faccio ascoltare. Willie DeVille appunto è stato lì in diverse occasioni, una di queste è appunto era il 19 luglio del 2008. Il brano che ci siamo ascoltati l'ha presentato lui stesso, si chiama Mixed Up Shook Up Girl. You know I love you. Abbiamo adesso, per quel che riguarda l'anno 2016, una super band, un super gruppo che si chiamava Prophets of Rage. Abbiamo in campo tre membri dei Rage Against the Machine / Audioslave, vale a dire il bassista Tim Comfort, il chitarrista Tom Morello e il batterista Brad Wilk. Poi abbiamo due membri dei Public Enemy, DJ Lord e rapper Chuck D, e un rapper che si chiama Be Real, rapper dei Cypress Hill, quindi nel proprio genere un vero e proprio super gruppo. Sono durati pochissimo, un album e qualche EP, perché poi a un certo punto i Rage Against the Machine si sono riformati, sono riuniti insieme a Zach LaRocha e quindi la band si è praticamente sciolta. Come dicevo, un album solo e qualche EP, fra cui questo che si chiama The Party's Over. Comprende due brani in studio e tre brani dal vivo, l'ultimo dei quali è stato registrato all'Agora Ballroom di Cleveland il 19 luglio del 2016 ed è un brano che conoscerete certamente, si chiama in origine No Sleep Till Brooklyn, mentre per l'occasione, visto che è stato registrato a Cleveland, si chiama No Sleep Till Cleveland. Loro sono Prophets of Rage, 19 luglio del 2016. No Sleep Till Brooklyn. number one. Gotta give us what we need. Hey, now freedom of speech. There's freedom of death. We got to fight the powers that be. Let me hear go. No, no. Sleep, sleep to Brooklyn. Gotta fight the power. No, no. Sleep, sleep to Brooklyn. Gotta fight the what, y'all? Sleep to Brooklyn. Gotta fight the power. No, no. Sleep, sleep to Brooklyn. Gotta fight the power. Elvis was a hero to most. Elvis was a hero to who? Elvis was a hero to most, but he never been shit to me. And see, straight up, racist, that sucker was simply plain. Motherfucking man, John Wayne. Cause I'm black and we're brown. Well, brown, I'm hype as I'm in. Most of my heroes don't appear to no fan. Trap boy, look like you looking fine. Nothing but randoms for 400 years of your check. Don't worry, be happy. Was the number one champ. Damn, if I say it, they can slap me right here. Get it? Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say? Hey, power to the people, no delay. Make everybody see, in order to fight the power that. Let me hear you go, no, no. Sleep, sleep to Brooklyn. Gotta fight the power, no, no. Sleep, sleep to Brooklyn. Gotta fight, come on y'all, no, no. Sleep, sleep to Brooklyn. Gotta fight the what, y'all, no, no. Sleep, sleep to Brooklyn. Gotta fight the power that. Non dormire fino a Cleveland nel caso specifico, perché devi combattere il sistema, ma poi sappiamo tutti come funziona. Comunque, Prophets of Rage, una super band con Tom Morello alla chitarra, sempre inconfondibile e molto riconoscibile, e il tutto tratto da un extended play che si chiama The Party's Over, due brani in studio e tre dal vivo. Questo è stato registrato appunto a Cleveland il 19 luglio del 2016 e conclude Recorded Today di oggi. A concludere la trasmissione, quindi c'è tempo per la novità che vi ho proposto quest'oggi, vi propongo anche quest'oggi, Eric Clapton, 24 Nights Blues. E prima però vi voglio ricordare un paio di cose, tipo che vi siete ascoltati un paio di ore di musica dal vivo scarse quest'oggi Città Fujiko, da Radio Città Fujiko. La trasmissione si chiama Città Fujiko Live Club, 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica, più naturalmente abbiamo il web con l'app che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. E un'altra cosa da dire, che naturalmente vi ringrazio per l'ascolto, è che noi ci risentiamo il 23 agosto, mercoledì 23 agosto, sempre alla stessa ora e sempre con le stesse modalità d'uso. Perché è presto detto, come ho già detto, mercoledì prossimo è il giorno dopo il concerto di Springsteen a Monza, quindi io sarò là, andrò anche a vedere la corona ferrea, e il 2 agosto invece è imperativo partecipare alla manifestazione in commemorazione della strage. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, dicevo, vi lascio in compagnia di Eric Clapton, della sua Worried Life Blues, tutto da questo doppio CD più DVD che si chiama 24 Nights Blues. Ciao a tutti da Nevio, buone ferie per chi ci va e buona permanenza per chi rimane. Eric Clapton, ciao. that's my story. And this is all I have to say to you. Goodbye, baby. I don't care what you do.